Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Allora, partiamo dalle buone notizie, perché oggi, purtroppo, come spesso avviene, non ci sono solo quelle. La buona notizia riguarda l'asta del tesoro. Sono giorni in cui l'Italia va a rifinanziare parte del suo debito. Oggi il tesoro ha collocato tutti i BTP a 10 anni per un valore di 2,5 miliardi, centrando appunto l'obiettivo massimo. Ha dovuto offrire però un rendimento più alto, non così più alto come quello offerto nei giorni scorsi per BOT e CTZ, nel senso che rispetto al 4,14% di maggio ha dovuto offrire oggi il 4,55%, quindi uno 0,4 in più. Bene è andata anche, anzi meglio ancora è andata l'asta di BTP a 5 anni. È vero che il tasso è salito al 3,47%, buona la domanda, 1,3 volte l'offerta, anche qui 2,5 miliardi, risalito appunto di uno 0,4%, ma siccome il tasso di interesse offerto è salito, ma non così tanto, ripeto, come nei giorni scorsi per altri titoli, lo spread italiano è calato, quindi la differenza tra quanto costa noi indebitarci rispetto a quanto non costa la Germania è calata, questa differenza, a 280 punti, quindi sotto il livello di 300 punti. E questa è la buona notizia di oggi, perché la notizia non buona, anzi negativa, riguarda le previsioni diffuse oggi dal Centro Studi Confindustria, di cui parleremo tra breve. E beh, insomma, il PIL va peggio di ogni attesa. Io lo devo dire, ormai da quando è scoppiata questa crisi, tranne un anno, tranne il 2010, che continuiamo a dover rivedere al ribasso le stime. Ricordo che l'anno scorso si disse 2013 sarà meno 0,5, poi meno 1, poi meno 1,5. Adesso l'ultima stima a metà anno è che, se tutto va bene, ossia se c'è quel poco di ripresa spostata ormai all'ultimo trimestre dell'anno e se non c'è un peggioramento delle situazioni, chiudiamo l'anno con un calo di quasi il 2%, meno 1,9%, che è il calo già acquisito, il meno 1,8%, cioè se i prossimi trimestri non vi fosse nessun segno negativo, chiuderemo comunque l'anno, se i prossimi trimestri fossero a variazione zero, chiuderemo comunque l'anno con un meno 1,8%. La stessa Confindustria dice però che si è toccato il fondo, ci sono segnali della fine di questa caduta, c'è un'attesa però, attenzione, un avvio di risalita che non costituisce però solide fondamenta per prevederla, cioè i segnali che arrivano non sono sufficienti per parlare di una solida ripresa, consistente ripresa. Questi dati fanno il paio poi con i dati sulla disoccupazione diffusi oggi sempre dal Centro Studi Confindustria. Quest'anno la disoccupazione toccherà il 12,5% e l'anno prossimo arriverà al 12,7%, se si inserisce però in questo dato anche la cassa integrazione, che non è chiaramente una vera disoccupazione ma non è neanche un'occupazione, il dato va al 14%. Il record della pressione fiscale è al 44,6%, massimo storico sul PIL. Tra l'altro quella effettiva, e cioè quella che pagano effettivamente gli italiani, perché alcuni evadono e quindi c'è il sommerso, quella effettiva vale il 53,5% del PIL come pressione fiscale. E su questo continua anche l'emorragia di imprese. Ne parleremo in apertura, perché è chiaro che la situazione è, a questo punto, di vista, in peggioramento. Io spero veramente che l'ultimo trimestre possa portare qualche segnale, però bisogna essere molto molto prudenti su questo. La borsa come va oggi? È anche oggi in recupero, più 0,70%, anche oggi e ancora più di ieri molto forte Mediaset, più 6,80%, il Banco Popolare più 3,60%, Mediolanum più 2,90%, Tenaris più 2,80%, A2A più 2,5% come Ansaldo STS, Prismian più 1,80%, Finmeccanica più 1,70% come Salvatore Ferragamo e Terna, Telecom più 1,6%, 1,5% lo guadagna Ubibanca ma anche Campari. Fronte opposto invece Popolare Emilia Romagna perde il 3,15%, la Popolare Milano il 2,80%, il Monte dei Paschi perde l'1,80% come Mediobanca, Exor meno 1,70%, 1,5%. Ci occuperemo chiaramente anche di borsa e avremo un'intervista con il numero uno del nuovo gruppo di costruzioni, leader in Italia e tra i maggiori in Europa. Mi riferisco all'integrazione Impregilo Salini. Oggi lunedì avviate dai due CDA, dai due consigli di amministrazione, oggi presentata alla comunità finanziaria. Cercheremo di capire anche quanto il nuovo gruppo, appunto Impregilo Salini, investirà e avrà le sue attività in Italia e quanto invece, vista anche la poca domanda che arriva dall'Italia e i pochi investimenti italiani, dovrà concentrarsi soprattutto sull'estero. 349-238-6666 per i vostri sms e poi la pagina di Focus Economia su Facebook. Allora, per quello che riguarda l'altro tema che dimenticavo, ci mancherebbe, il vertice Ecofin e il Consiglio europeo è iniziato oggi. Non sono arrivate novità fortissime rispetto a quelle già viste già sui giornali. L'accordo sul meccanismo di fallimento ordinato delle banche, hanno trovato un compromesso, infatti in base al meccanismo definito dai paesi dell'Europa, quando una banca fallisce a rimetterci saranno in prima battuta gli azionisti, poi gli obbligazionisti meno assicurati, infine i depositi, fatti salvi quelli sotto i 100.000 euro che sono garantiti da una direttiva europea. Di nuovo il Financial Times sul caso dei derivati comprati dall'Italia a fine anni 90 per abbellire, questa è l'ipotesi, il deficit, mostrando, diciamo, sostanzialmente è come se uno chiedesse un prestito e utilizzasse questo prestito per mostrare che ha maggiore liquidità. Adesso la traduco in maniera molto molto approssimativa, ma questa è l'operazione, è solo che poi il prestito lo devi ripagare. Il sospetto è che siano servite, che queste operazioni siano servite per abbellire appunto il nostro deficit per entrare nell'euro a fine anni 90. Oggi il Financial Times dice: l'Italia dimostri che non ha nulla da nascondere, in un editoriale intitolato L'abbellimento finanziario di Roma. E sempre il Financial Times dice che suona falsa la posizione di Roma, che ha negato che gli swap siano serviti al proposito politico di portare le finanze pubbliche in linea con i criteri per entrare nell'euro. Roma fa bene a sminuire la portata del costo per il tesoro, conclude il Financial Times, che però appunto auspica uno sforzo per rendere i conti pubblici più trasparenti. Il procuratore generale della Corte dei Conti oggi, Salvatore Nottola, ha detto che il ricorso ai derivati merita un'attenta considerazione sia per gli enti locali e occorre che per il bilancio statale, e occorre assicurare massima trasparenza. Sempre sull'Italia, oggi il Premier Letta ha detto non ci sono aumenti di tasse, il tema della vicenda è la copertura dentro il bilancio, questo sulle iniziative prese ieri sul decreto soprattutto per l'occupazione, oltre che il rinvio dell'IVA, e il ministro dello sviluppo economico Zanonato ha detto che il governo conta di avere una ripresa produttiva che metta in moto l'economia e che la alimenti, bloccando definitivamente l'aumento dell'IVA. Quindi traduco: se ci fosse una ripresa negli ultimi trimestri dell'anno, a questo punto settembre-dicembre, questo potrebbe permettere al governo di congelare definitivamente l'aumento dell'IVA al 22%. E il ministro Giovannini oggi è tornato sul decreto presentato ieri, sostenendo che le misure prese dal governo per l'occupazione potrebbero far calare di 2 punti percentuali la disoccupazione giovanile, che lo ricordo al momento, in questo momento è al 25%. Tra il 2008, però lo comunica l'Istat, e il 2012, gli occupati tra i 15 e i 29 anni sono diminuiti di 730.000 unità, cioè 730.000 giovani in meno al lavoro. È una cifra spaventosa a mio avviso, di cui 130.000 nell'ultimo anno. L'Italia, IBM ha annunciato 355 esuberi, ha rotto le trattative con il sindacato in Asso Lombarda, lo hanno affermato le organizzazioni dei lavoratori, che hanno annunciato uno sciopero di 8 ore con presidi davanti alle sedi del gruppo. I sindacati sostengono che il colosso dell'informatica ha chiuso il 2012 con 100 milioni di utile e per far crescere il valore delle proprie azioni la borsa di New York ha deciso di tagliare i posti di lavoro. Sul fronte invece Indesit e gli esuberi annunciati, l'incontro di oggi tra il ministro dello sviluppo economico Zanonato e l'amministratore delegato di Indesit Marco Milani con i governatori delle Marche e della Campania si è chiuso con l'intenzione di convocare per mercoledì della prossima settimana un primo tavolo tra ministero, azienda e sindacati. Tre notizie in breve e poi torna purtroppo una rubrica di cui faremmo volentieri a meno, ma dicevo, tre notizie in breve. Per quello che riguarda le acquisizioni e gli investimenti, Candy Group oggi ha inaugurato a Kirov in Russia una nuova linea dedicata alla produzione di frigoriferi nello stabilimento della controllata Vesta. Avrà una capacità produttiva di 150.000 pezzi l'anno. Nel frattempo una nuova piccolissima acquisizione straniera francese di nuovo in Italia, la famosa pasticceria di Milano, quella in via Monte Napoleone Cova, viene acquisita in maggioranza dal gruppo francese Louis Vuitton Moët&Cie, quindi François Pinault, e praticamente il marchio Cova viene ceduto per quello che riguarda la maggior parte del controllo appunto a Louis Vuitton Moët&Cie, mentre da Parigi, e riguarda l'Italia in questo caso, il Tribunale di Parigi ha disposto la distruzione di 49 scooter che avevano copiato la Vespa Piaggio, riconoscendo il diritto di autore della società italiana sulle forme esteriori della Vespa. Lo ha annunciato la stessa Piaggio in una nota, spiegando che la sentenza è stata presa dopo le azioni promosse a propria tutela nel corso del Salone della Moto e dello Scooter svoltosi a Parigi nel novembre-dicembre 2011, in cui si erano accorti che c'erano appunto 40 scooter copiati, sostanzialmente identici al modello Vespa Piaggio. Adesso arriviamo anche alle previsioni di Confindustria. Prima però devo tornare, ripeto, su una rubrica che ogni tanto abbiamo, che riguarda gli sprechi della nostra pubblica amministrazione. Abbassare, buttare anche più la sposa in bianco, il maschio forte, i ministri puliti, i buffoni di corte, ladri di polli, super pensioni, drag e più, ladri di stato e stupratori, il grasso ventre dei commentatori, diete politicizzate, evasori legalizzati, drag e più, auto blu, sangue blu, cieli blu, amore blu, rock and blues. Allora, mentre vedo che molti ascoltatori vogliono sapere cosa ne pensiamo del decreto di ieri, allora l'abbiamo commentato con due dei massimi esperti di politica del lavoro, e mi riferisco a Tito Boeri e al professor Tiraboschi, i quali erano abbastanza d'accordo, lo dico per chi si fosse perso la puntata, nel ritenere che sì, meglio di niente, sulla buona strada, non con effetti così dirompenti, così radicali sull'occupazione, che è la stessa linea che ha tenuto Brunetta, Renato Brunetta, l'abbiamo fatto ascoltare anche perché ieri era il nostro ospite, quindi chi se lo fosse perso può riascoltare la puntata di ieri. Confermo invece che sono aumentate le misure fisse dell'imposta di bollo. Da ieri, infatti, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, gli importi in precedenza stabiliti in 1,81 euro e in 14,62 euro passano rispettivamente a 2 euro e a 16 euro. Non sono interessati dalla novità gli atti finalizzati fino al 25 giugno, anche se presentati in data successiva. Dopodiché, in effetti, c'è un aumento di tasse. Ha ragione chi dice: beh, Letta non può dire che non c'è un aumento di tasse. Certo, c'è un piccolo aumento di tasse, è innegabile se aumenta l'imposta di bollo, come volete chiamarlo. Comunque, visto che abbiamo Rino Gaetano sullo sfondo, mentre in Gran Bretagna addirittura viene travolto dalle polemiche il ministro del tesoro George Osborne, lui, per accattivarsi l'opinione pubblica, aveva pubblicato su Twitter una foto mentre mangiava un hamburger e lavorava, in modo da sembrare appunto come la maggior parte dei britannici, non avere neanche il tempo di pranzare. Se lo sono mangiato perché hanno scoperto che l'hamburger che mangiava è uno dei panini più costosi, costa 10 sterline, 13-14 euro, e quindi dice, attenzione, proprio tu che stai facendo una spending review, quindi un taglio della spesa pubblica da 11 miliardi e mezzo, 13 miliardi di euro, ti mangi l'hamburger più costoso. È un mondo sideralmente distante dal nostro, perché da noi uno, stiamo raccontando i pranzi e le cene degli onorevoli e dei consiglieri comunali o regionali, voglio dire regionali soprattutto, altro che l'hamburger a 12 euro, magari l'hamburger a 12 euro mentre uno mangia di fronte al computer. Per esempio, vediamo un po' la regione Lazio durante l'era Polverini, che era diventata l'isola felice delle consulenze, perché la parcella minima era 15.000 euro. I dati li ha pubblicati la sezione di controllo della Corte dei Conti del Lazio e lasciano poco spazio ai dubbi. Tra le pieghe del bilancio 2011 del Lazio, che si è chiuso con un buco di 11 miliardi di euro, cioè quasi una manovra finanziaria, sono state infilate consulenze esterne pagate decine di migliaia di euro, incarichi che, dice la Corte dei Conti, hanno prodotto report incompleti o elaborati incongrui. C'è anche un consulente che non ha nemmeno presentato una riga dattiloscritta, mi riferisco a Antonio Tiseo. La sua relazione sui processi decisionali multilivello, la politica di coesione e la partecipazione alla produzione normativa UE, il documento non è mai stato consegnato, però dalle casse della regione sono comunque usciti 15.000 euro. Gli fa compagnia Alessia Albani, 22.000 euro dal Consiglio regionale e relazione mai inviata, avrebbe dovuto mandare una relazione anche la Albani, così come il professor Claudio Lena aveva una consulenza affidata, però contiene un report diverso: ambiente, stato dell'area nel Lazio, strategie e metodi di intervento, appunto un report diverso da quello che gli era stato chiesto. Comunque lui ha ottenuto, nonostante abbia parlato e fatto una consulenza per qualcos'altro, 35.000 euro. C'è poi il caso bellissimo di Cecilia Rosica, che rosica poco, perché lei ha beccato 33.000 euro per una autorelazione, cioè 10 pagine che attestano la sua attività ma che lasciano la sua scheda priva della relazione sull'oggetto richiesto. Ma il massimo questo. Poi c'è tutto invece un gruppo di consulenti che ha rispettato le consegne. Peccato che i loro elaborati, e non lo dico io, lo dice la Corte dei Conti, fossero del tutto inutili. All'estrema genericità del loro oggetto, scrivono i magistrati, corrisponde un elaborato sintetico nella forma e generico nei contenuti. Per esempio, per un incarico da 33.000 euro, Alessandra Tibaldi se l'è cavata con un documento di 9 pagine. E la miseria, ma che sei, un premio Nobel, 9 pagine e 33.000 euro? Il titolo è Lazio, due punti, fenomenologia locale di una crisi globale, analisi e proposte. E immagino che all'Accademia di Stoccolma attendano con ansia queste 9 paginette. E i giudici dicono, ma insomma, quello che ha scritto è solo l'elemento generale per inquadrare l'argomento, cioè praticamente ti ascolti Focus Economia o ti leggi un po' il Sole 24 Ore e l'elaborato ce l'hai. Anche Andrea Pizzicaroli, Caterina Leone, Fabrizio Dani hanno incassato 33.000 euro a testa, i primi due hanno consegnato 11 pagine a testa, vuol dire 3.000 euro l'una, ma per una pagina 3.000 euro, ma ci rendiamo conto? Il terzo consulente esterno, al quale era stato chiesto di comparare i regolamenti dei consigli regionali per studiarne l'autonomia finanziaria, oltre a 3 cartelle scritte di proprio pugno, ha presentato 6 pagine con stralci degli statuti della regione Veneto, Piemonte e Umbria. Ci ha fatto un copia e incolla da internet, ma siamo alla follia. Di minore importo, ma ugualmente inutile, la relazione di Ofelia Palombo, 7 pagine che offrono al lettore soltanto i primi rudimenti per affrontare la questione delle pari opportunità nei luoghi di lavoro. 30.000 euro comunque la consulenza, buttali via. Chiudono la classifica delle consulenze le 6 pagine introduttive di politiche regionali di gestione dei flussi migratori nell'ambito della integrazione di cittadini stranieri, con riferimento alle linee di indirizzo della Commissione europea. La firma di Andrea Fama, sono costate alla regione 22.000 euro. Io poi dico, non ci sono mai soldi per il resto, e vi ho letto solo le più interessanti di queste consulenze. Comunque, chiudiamo perché mi sta venendo la bile, con l'assemblea regionale siciliana che ci dà sempre grandi spunti. Assemblea semivuota ieri, in apertura di seduta parlamentare presenti solo 4 deputati su 90, poi più o meno 20. 12 parlamentari dell'Assemblea regionale siciliana sono in congedo. L'ultimo disegno di legge dell'Assemblea regionale siciliana è di 2 mesi fa, la legge finanziaria 2 mesi fa, approvata nella notte tra il 30 aprile e il 1 maggio sul filo di lana dell'ultimo termine utile, e quindi Stakhanov non abita a Palermo nell'Assemblea regionale siciliana. Basta, 349-238, se gli altri non ne posso più leggere, leggo nei prossimi giorni, mi sto arrabbiando, 349-238-6666 per i vostri sms e poi la pagina di Focus Economia su Facebook. Lo so che alcuni di voi ridono, ma c'è poco da ridere purtroppo, visto che anche l'anno scorso la pubblica amministrazione ha speso 1.300 milioni di euro in consulenze, più 4%, con un PIL che faceva meno 1,5. Insomma, voi ridete sugli elaborati, sulle politiche regionali di gestione dei flussi migratori nell'ambito dell'integrazione di cittadini stranieri con riferimento alle linee di indirizzo della Commissione europea. Ma questi sono dei geni, perché hanno preso decine di migliaia di euro per scrivere 4 paginette di copia e incolla sui giornali. Andrebbero studiati nelle università di tutto il mondo. Allora, basta notizie così tristi. Ok, vi beccate adesso il rapporto di Centro Studi Confindustria, che oggi dice sostanzialmente, come ricordavamo, chiuderemo, se tutto va bene, con un meno 1,9%, e che la crisi ha toccato il fondo, c'è qualche segnale di fine della caduta, ma attenzione, è ancora lunga la strada, non esistono solide fondamenta per la crescita. La disoccupazione è al 12,5% quest'anno e al 12,7% l'anno prossimo. La chiusura delle imprese continua con dei ritmi, a mio avviso, allarmanti, anche perché sono oltre 7.000 nei primi mesi di quest'anno i fallimenti nei primi 6 mesi di quest'anno. Le ha chiaramente commentate anche il presidente Confindustria Squinzi. 2 sole note. Il centro studi fa notare come la pressione fiscale abbia raggiunto un livello insostenibile, perché è a record come dato nominale al 44,6% del PIL. Però se si va a vedere qual è la pressione su chi le tasse le paga veramente con i 120 miliardi di nero che abbiamo, siamo al 53,4% di pressione fiscale sul PIL. 700.000 persone hanno perso il lavoro da fine del 2007, e appunto continua anche l'emorragia di imprese, con oltre 7.000 chiusure nei primi 6 mesi, fallimenti nei primi 6 mesi dell'anno. Il commento ai dati e soprattutto a questo meno 1,9% di PIL quest'anno, contro attese precedenti di meno 1,1, meno 1,5, il commento, dicevo, del presidente Confindustria Giorgio Squinzi. Meno 1,9 è stimato dal Centro Studi per il 2013, è un'ulteriore caduta pesante, soprattutto perché viene dopo il meno 2,4 del 2012, che già aveva suscitato molte polemiche, e soprattutto perché porta a oltre il 9% della flessione da quando è iniziata la crisi. È vero, c'è qualche segnale positivo, come il balzo della fiducia dei consumatori, legato essenzialmente all'insediamento del nuovo governo, l'incremento delle esportazioni extra Unione Europea, segnali che più o meno confermano che stiamo arrivando al fondo e che a partire dalla fine di quest'anno forse si potrebbe vedere un'inversione di segno. Ma questo però è ancora insufficiente per confidare in una ripresa duratura. Per consolidare lo scatto di fiducia dei consumatori è necessaria una prospettiva di stabilità di lungo termine per il governo Letta, che dia tempo non solo di tracciare, ma soprattutto di realizzare un piano strutturale di politiche economiche. E poi il presidente Confindustria ha anche commentato le misure prese ieri dal governo, commento positivo. È chiaro a tutti che non basterà questo, ci mancherebbe, però che è un primo inizio, un primo tentativo. Anche qui io dico, questo deve essere un governo che deve fare, ma per favore diamogli anche un minimo di tempo. Poi, come sempre, come abbiamo fatto col governo Monti, col governo Berlusconi, col governo Prodi, vedremo se ci metterà troppo tempo e se le iniziative saranno solo annunci. Però intanto diamogli anche un po' di tempo e vedremo come andrà il Consiglio europeo di oggi e domani. Dicevo, il commento del presidente di Confindustria Squinti sulle misure annunciate ieri dal governo in tema soprattutto di occupazione giovanile, ma anche di rinvio dell'aumento dell'IVA. Ha fatto bene il governo Letta a porre la questione del lavoro al centro dell'agenda europea e a metterla al primo posto anche dell'azione di governo. Le misure prese ieri infatti danno la percezione che chi ci governa sa che è il lavoro il cuore del problema, anche se, e va detto chiaramente, non bastano alcuni incentivi e qualche modifica delle regole per ricreare i posti di lavoro persi con la crisi. Per farlo bisogna ritrovare la crescita, e ritrovare la crescita a ritmi elevati, perché il lavoro segue il PIL e non viceversa. I nuovi posti di lavoro vengono infatti quando c'è la domanda, e la domanda nasce da nuove iniziative, nuovi impianti, nuovi prodotti, organizzazioni aziendali più efficienti. Per questo servono politiche economiche decise e coraggiose che affrontino subito tre nodi cruciali: credito, competitività, investimenti. Ed è con noi Luca Paolazzi, direttore del Centro Studi Confindustria. Buonasera Luca. Buonasera a tutti. Abbiamo ascoltato la preoccupazione del presidente Confindustria Squinzi per i dati che voi oggi avete diffuso, e però anche il commento positivo sulle misure per il lavoro adottate ieri dal Consiglio dei Ministri. Venendo all'impatto economico, c'è chi dice vanno nella strada giusta, ma difficilmente da lì si avrà una inversione di tendenza su quello che è il nostro PIL. Beh, sicuramente teniamo presente che secondo le nostre previsioni alla fine dell'anno prossimo saremo ancora sotto di 8 punti percentuali e mancheranno 1,8 milioni di unità di lavoro rispetto al pre-crisi. Queste misure aiutano, come tutte le misure che rendono più facile il funzionamento del sistema economico. Detto questo, occorre un rilancio della crescita, e questo si ha solo con un progetto paese, un progetto competitività, un progetto di rilancio della domanda interna attraverso gli investimenti. Queste misure finora varate dal governo, tutte, come quelle che deve fare, contengono buoni, talvolta anche ottimi provvedimenti, ma sono, diciamo, piccoli primi passi e non si capisce qual è il disegno complessivo. Ecco, su questo, tra l'altro, visto che oggi anche Standard & Poor's ha rivisto al ribasso le previsioni di crescita sull'Italia, -1,9 quest'anno, altro che -0,5, -1, -1,5, devo dire in linea assolutamente con la vostra stima di -1,9%. Dicevo, per arrivare a una vera inversione di tendenza, tutti aspetti che possa uscire qualcosa dal Consiglio europeo che è iniziato oggi e si concluderà domani, o saranno solo dichiarazioni di intenti di carattere politico ma nulla di concreto sul fronte delle risorse disponibili? Ma credo che quello che dovevano decidere un po' è già apparso su tutti i giornali, quindi 100 miliardi di finanziamento alle piccole e medie imprese, però da qui al 2020, operativi credo dal 1 gennaio 2014, la possibilità di utilizzare prima fondi europei riguardo agli IAF Guarantee, cioè la disoccupazione giovanile, però ripeto, tutto questo non basta, occorre, diciamo, un'inversione netta della politica europea, che è già stata in parte fatta, però deve essere meglio precisata sul sentiero di rientro dei conti pubblici. Un'ultima domanda riguarda appunto l'inversione, sempre sull'inversione di tendenza. secondo voi la linea maestra resta quella della riduzione del carico fiscale in busta paga, per dire a tutti, cioè il cuneo fiscale, oltre che il mantenimento delle promesse fatte alle imprese che aspettano di essere pagate dallo Stato e quindi il rimborso parziale dei crediti? Beh, la riduzione del costo del lavoro è una misura cruciale per recuperare un po' della competitività che abbiamo perso prima della crisi e continuiamo a perdere adesso. E questa è una misura fondamentale per far sì che le nostre esportazioni facciano più da traino al resto dell'economia. E quindi unitamente al rimborso dei crediti per le imprese. In una battuta per concludere, non c'è nessuna speranza che, da quello che voi vedete, che questa cifra di oggi, meno 1,9%, venga corretta una volta tanto, però in senso migliorativo, cioè anche se non dobbiamo attenderci nulla di che dal cosiddetto recupero di fine anno degli ultimi tre mesi? L'unica cosa che non muore mai è la speranza. Detto questo, noi siamo stati diciamo abbastanza coraggiosi a mantenere l'inversione di rotta per la fine dell'anno, potrebbe essere anticipata diciamo un po' nel terzo trimestre, però non ci sono questi grandi indicatori macroeconomici da questo punto di vista, quindi ben venga un meno 1,9. Ben venga. Perché peraltro è già quasi tutto acquisito, quindi sì. Quindi anche se se non calassimo più, se fosse zero, chiuderemo con meno 1,9%. Meno 1,8%. 1,8%. Sì, non è il massimo dire benvenga a meno 1,8%, però ho capito benissimo il ragionamento, potrebbe essere anche peggio. Grazie al direttore del Centro Studi di Confindustria, Luca Paolazzi. Grazie a voi, buonasera. minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. No, non torno sul tema delle consulenze, mi sono già arrabbiato abbastanza. Certo che qualcuno dovrà rispondere, visto che c'è un'indagine alla Corte dei Conti e il periodo riguarda quello della giunta Polverini. Poi ti chiedi come ha fatto la Regione Lazio a chiudere con 11 miliardi di buco di deficit. E questa è la risposta. Non siamo mai contenti, no, non siamo contenti, perché finché non vediamo questo paese tornare a crescere, la disoccupazione calare, le tasse in busta paga ridursi, l'evasione fiscale contrastata, quella grossa, anche quella piccola, ma quella grossa, no, gli studi di settore sugli artigiani che chiudono e basta, finché non vedremo un paese così non saremo mai contenti, lo dico molto tranquillamente, continueremo a fare questo programma e a raccontare quello che va e quello che non va. A me, insomma, un'informazione positiva di Stato, ricordo molto gli stati autoritari, l'informazione, se è positiva è positiva, se è negativa è negativa, cerchiamo di raccontare con la massima onestà quello che vediamo, spesso magari non lo capiamo, ma almeno lo raccontiamo. Detto ciò, la borsa, dicevo, più 0,50% con questo botto di Mediaset, allora vorrei parlarne oggi non tanto con i colleghi di Radio Corriere sulle 24 ore, ma con il direttore di Money Report, ogni tanto invitiamo anche, tra virgolette, esterni. Salvatore Graziano, buonasera. Buonasera a tutti. A Mediaset, più 7,80%, insomma, un vero balzo. Le parole del procuratore generale della Cassazione, secondo il quale la sentenza regge, ma potrebbe esserci, mi riferisco al lodo, potrebbe esserci, lodo Mondadori, una riduzione di circa il 15% rispetto all'importo liquidato, che ricorderete erano 564 milioni a favore di Carlo De Benedetti, del gruppo appunto Espresso, e questo è il motivo che ha fatto balzare il titolo, mi sembra. Ma sicuramente è una notizia che diciamo stempera le attese che vedevano da molto tempo, c'era chi scommetteva sul fatto che avvicinandosi a giugno-luglio avremmo visto il gruppo Mediaset scendere e il gruppo invece Ecofide, CIR, il gruppo di De Benedetti invece ritornare a balzare. In realtà questo non sta succedendo, anzi, tra l'altro fa quasi sorridere la notizia che anche questa settimana i famosi report di cui spesso si parla, nei confronti di Mediaset era inserita in una lista delle le azioni meno preferite da parte di Bank of America. E dopo che il titolo, ricordo che da inizio anno il titolo Mediaset credo che oggi salga del 76%, e hanno dovuto ammettere che avevano sbagliato probabilmente la previsione, anche se non l'hanno detto in questo modo, ma l'hanno tolta dalla lista dei titoli meno preferiti di Piazza Affari. E quindi come battuta adesso inizierà a scendere, no? Nel senso che se sono così potremmo, noi che siamo malfidati, potremmo iniziare a pensare questo. Tra l'altro ho fatto due conti proprio poco fa, e è interessante notare che da inizio anno Mediaset sale circa del 76%, contro Piazza Affari, che ricordiamo che nonostante il rialzino di oggi è ancora sotto il del 4-5%. Sì. E se andiamo a prendere la capitalizzazione di Mediaset da inizio anno, praticamente è salita di 1,2 miliardi di euro. Considerando che Fininvest ne ha il 41%, ovvero signor Silvio Berlusconi, il cavaliere, praticamente ha guadagnato personalmente da inizio anno circa 500 milioni, che sono proprio i soldi che dovrebbe teoricamente ACIR se confermato lo sconticino. Cioè gli basterebbe, diciamo, che chiaramente non va a vendere, lui ha guadagno virtuale, perché mica cede la sua quota Berlusconi. Sì, esatto. Però, diciamo, se la cedesse avrebbe ripagato quello che è il costo della sentenza per... Sì, quindi, diciamo, per questo anno che abbiamo letto in questi giorni le cronache giudiziarie, sì, orribili per lui, diciamo che un parte... Chiaro, però una cosa volevo dire, giustissimo ragionamento su Mediaset, sui report invece, guardi, noi non li diamo praticamente mai, non solo perché come tutti gli esseri umani anche gli analisti sbagliano, e fin qua sarebbe semplicemente umano. Sì, il problema è che delle volte, cioè, finché non capiamo quale sia l'esposizione della banca che emette questi report nei confronti del titolo che va a valutare, lei citava Bank of America, nei confronti di Mediaset, io prima voglio sapere quante azioni Mediaset ha Bank of America, nel caso specifico, e poi mi leggo il report. Se non me lo dite non mi fido, perché ho il dubbio che il report possa essere fatto per indirizzare un titolo che o voi avete in portafoglio e volete vendere, oppure volete comprare a prezzi bassi. Ricordo che prima dello scoppio della crisi è emerso come ultimo dato che in un caso su cinque la banca che metteva il report si comportava in maniera diametralmente opposta a quello che suggerivano i suoi analisti. Cioè l'analista diceva vendere e la banca comprava, l'analista diceva compra e la banca vendeva, con il sospetto che appunto una fosse la comunicazione per il pubblico di massa e ci fosse un conflitto di interesse nella banca. Chiudo questo pippotto su i report e gli analisti, andiamo con i titoli. Banco Popolare più 3,5% da un lato, mentre Popolare Emilia Romagna meno 3,20% e Popolare Milano meno 2,80%, Monte dei Paschi meno 1,80%, divisa in due oggi le Popolari. Ma sì, diciamo che in realtà di grandi notizie quest'oggi non ce ne sono state. Più che altro diciamo che Banco Popolare di Milano da una parte, o Banca Popolare dell'Etruria, che invece è un titolo che sono saliti molto, ci sono delle situazioni tecniche particolari. Nel caso di Banca Popolare Etruria siamo agli ultimi giorni di un aumento di capitale, quindi c'è stato un minimo di risalita, però è un titolo che è stato fortemente penalizzato in questi ultimi mesi e che sicuramente non sarebbe passata molto bene con questa crisi. Popolare di Milano, diciamo, ha risentito negativamente delle indiscrezioni uscite in questi giorni di un nuovo aumento di capitale di cui si parla, che potrebbe essere di circa 500 milioni di euro, e anche di una ispezione che è ancora in corso in banca, effettuata da Banca d'Italia, da cui dall'esito si capirà se la governance ancora deve essere rimessa a posto. E proprio dal tema della governance anche qua incide su Banca Popolare di Etruria, che nelle scorse settimane è stata fortemente venduta a Piazza Affari, perché è di nuovo giunta notizia di un'ulteriore ispezione da parte della Banca d'Italia riguardo i cosiddetti performing loans, riguardo i prestiti, e il mercato ha reagito abbastanza male a questa notizia, anche se poi l'amministratore delegato e anche i suoi soliti report usciti hanno cercato di tranquillizzare sul mercato. E questo per quello che riguarda i tre titoli. Poi oggi vediamo in ripresa Tenaris, più 2,80%, Mediolanum più 2,70%, di nuovo bene nel settore delle utilities, quindi A2A più 2,30% da un lato, ma non solo, perché ho visto anche Eni più 1%, più debole invece Snam meno 0,40%. Per quello che riguarda Enel più 0,24%, Enel Green Power più 0,20%, ancora Prysmian, l'ex Pirelli Cavi più 2,14%, Azimut più 1,90%, Ferragamo più 90, Campari più 60, Fiat Industrial più 40%. Per quello che riguarda Azimut e anche Mediolanum, qui c'è un dato che è passato un po' sotto silenzio, ma insomma, i fondi comuni di investimento hanno fatto una raccolta record, no? Questo il mese. Sì, il mese... diciamo che negli ultimi giorni, a complice anche un po' i ribassi, questi dati sono stati un po' sottovalutati e sicuramente da inizio anno Azimut, Banca Mediolanum e Banca Generali sono fra i titoli peraltro che a Piazza Affari si stanno comportando nettamente meglio con rialzi anche del 70-80% e stanno veramente sono beneficiate proprio da questa ondata di raccolta che peraltro poi in molte di queste società significa guadagnare più volte, non solo sulle commissioni di gestione ma spesso anche sulle commissioni di performance che alcune di queste banche citate le calcolano in maniera molto particolare, basta veramente che gli indici oscillino per ottenere delle compensi nettamente molto elevati e diciamo che oggi sono sicuramente risaliti anche se diciamo che non... hanno comunque più che altro recuperato qualcosa di quello che avevano perso nelle ultime settimane, ricordo che Azimut comunque nell'ultima settimana rimane meno 7,97% da solo nell'ultima settimana, quindi sì. Diciamo, si può avere, diciamo, giustamente definire più che altro un rimbalzo. Un rimbalzo, beh, comunque era importante ricordarlo perché poi noi ci occupiamo in questi giorni anche di notizie più di economia e anche di politiche economiche, però insomma la raccolta dei fondi non è andata male, anzi ha toccato il livello più alto dello scoppio della crisi. Grazie quindi a Salvatore Gazziano, direttore di Money Report. I migliori e peggiori: Fintel meno 9,80, Arena meno 6,90, PMS meno 6,70, il migliore Edes più 15%, Bioera più 12%, Dea Capital più 9,5%, TBS Group più 9,20%. E 8 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Intanto vi aggiorno su due notizie appena uscite. Una buona, nel senso che gli elettrodomestici potranno beneficiare degli incentivi, degli eco bonus fino a un tetto di 10.000 euro previsti dal decreto sulle ristrutturazioni edilizie e l'efficienza energetica. Lo prevede un emendamento approvato dalle commissioni Industria e Finanze del Senato. Quella meno buona invece riguarda l'aumento dell'imposta di bollo da 14,62 a 16 euro entrata in vigore ieri. E che mi dispiace se il Premier Letta dice che non ci sono nuove tasse, però quella è una tassa. L'associazione del settore pratiche auto calcola che lo Stato incasserà da chi acquista un veicolo circa 45 milioni di euro in più con questo aumento. Un incremento di quasi il 10% che si paga ben 4 volte per ogni immatricolazione, passaggio di proprietà e per ogni mini voltura e 2 volte per ogni radiazione. Sono 8 milioni e mezzo di pratiche all'anno che porteranno nelle casse dello Stato 45 milioni di euro in più. E questo per quello che riguarda gli aggiornamenti sul decreto. Ci colleghiamo invece adesso con Bruxelles, perché era l'altro grosso tema di questa puntata. Il vertice europeo che è iniziato oggi, si concluderà domani, è chiamato ad affrontare il problema della disoccupazione giovanile nell'Unione Europea. Questa mattina ha raggiunto l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio Europeo sul bilancio 2014-2020 che prevede la piena flessibilità nei primi 3 anni per i pagamenti. Senza l'accordo i fondi a sostegno di occupazione e imprese sarebbero bloccati. Ieri notte l'accordo del vertice Ecofin sul meccanismo di fallimento ordinato. In pratica si è trovato un compromesso tra chi come Francia e Gran Bretagna volevano più flessibilità, quindi scegliere da soli a chi far pagare il conto delle banche che dovessero eventualmente fallire, e invece la Germania che voleva regole uguali per tutti. In base al meccanismo definito ieri notte, quando una banca fallisce, a rimetterci saranno in prima battuta gli azionisti, poi gli obbligazionisti meno assicurati e infine i depositi, fatti salvi i depositi sotto i 100.000 euro che sono comunque garantiti da una direttiva europea. E i primi commenti sono arrivati proprio su questo. Tra l'altro ha commentato anche il ruolo dell'Italia, le proposte dell'Italia oggi all'inizio del vertice, il premier Enrico Letta. L'Italia arriva al Consiglio europeo più forte dopo la decisione che abbiamo preso ieri nel Consiglio dei Ministri, un'iniziativa importante, 1,5 miliardi di euro che ieri abbiamo stanziato a favore del lavoro per i giovani e a favore di recuperare possibilità di lavoro anche per coloro che oggi sono hanno perso il lavoro, hanno finito la cassa integrazione, sono nella fase del cosiddetto ASPI e disperati, hanno bisogno invece di un rapporto con occasione di lavoro. Abbiamo messo un incentivo per queste persone particolare, anche se non sono giovani, ma anche se sono appunto sopra il limite dell'età, che invece vale per tutti gli altri incentivi per i giovani. E dell'accordo sul fallimento delle banche, ma anche dell'occupazione, si è già parlato in mattinata e poi nel pomeriggio. C'è il nostro inviato Sergio Nava. Sergio, buonasera. Buonasera Sebastiano, buonasera agli ascoltatori. Dicevo, commento di Angela Merkel sull'accordo sulle banche, ma su riforme e il lavoro, il pacchetto crescita, mi sembra che sia uscito ancora molto, molto poco, pochino. Ma diciamo che nelle conclusioni almeno del summit è già tutto più o meno scritto, cioè possiamo anche anticiparlo, nel senso che quello che i leader, se non ci saranno sorprese, se non ci saranno novità, decideranno sarà quello di spalmare nei primi due anni, 2014-2015, i fondi per l'occupazione giovanile. All'Italia andranno tra i 400 e i 600 milioni su un totale di 6 miliardi, si avvierà anche la cosiddetta garanzia per i giovani, cioè la possibilità, o meglio la garanzia che qualsiasi giovane disoccupato, comunque che ha appena finito gli studi, possa avere un'occasione di lavoro o di qualificazione professionale entro 4 mesi e soprattutto si rafforzeranno anche dei programmi di mobilità internazionale, sia a livello di formazione sia a livello di lavoro. Il tutto mentre, e questa è anche una cosa su cui occorrerà decidere e definendo bene anche i target di mobilitazione di denaro, è il cosiddetto piano di investimento che coinvolgerà la Banca Europea per gli Investimenti, che è stata ricapitalizzata recentemente per 10 miliardi. Bisogna capire quanto denaro questi 10 miliardi muoverà nei prossimi anni, si spera almeno 100 miliardi di soldi che potranno poi essere investiti da parte delle piccole e medie imprese e generare così occupazione. E quindi tutto questo, diciamo, dovrà arrivare domani. A che ora ci attendiamo il documento finale, Sergio? Ma allora, questi temi saranno affrontati stasera. Sì. Tra l'altro il vertice è iniziato da poco, è iniziato con circa un'ora di ritardo. In questo momento i 27 leader sono riuniti con i rappresentanti degli imprenditori per l'Italia, anzi o meglio per gli imprenditori europei c'è Business Europe, che è rappresentata da Emma Marcegaglia, ci sono anche i sindacati europei. Come dicevo, è tutto iniziato con circa un'ora di ritardo, i lavori veri e propri quindi dovrebbero svolgersi nel corso della serata. Diciamo che a fine serata dovrebbero arrivare poi l'annuncio dei soldi, dello stanziamento dei soldi per i giovani contro la disoccupazione. A fine serata, oggi intendi dire? Oggi. Ho capito, quindi attendiamo l'annuncio ufficiale almeno sugli stanziamenti per l'occupazione giovanile già nella serata di oggi. Noi tireremo invece in collegamento domani, Sergio, per comunque la parte conclusiva del Consiglio europeo e poi chiaramente nei nostri GR per darci notizia della conferma appunto del documento conclusivo e dei soldi, scusatemi se insisto, presenti per le politiche giovanili. Grazie intanto al nostro Sergio Nava in collegamento con noi da Bruxelles. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, ultima parte di Focus Economia. Dicevo, il settore delle infrastrutture, delle costruzioni in questo paese, che con l'operazione a cui facevo riferimento, importante insomma, un'operazione che si è concretizzata proprio in questi ultimi giorni. Eh sì, parliamo di Salini e Impregilo, perché come ricorderete lunedì scorso il consiglio di amministrazione di Salini e anche quello di Impregilo, i due consigli, hanno approvato il progetto di fusione, un prezzo di concambio di 6,45 azioni Impregilo ogni azione Salini. Le assemblee verranno fatte dopo l'estate, se abbiamo ben capito, per la ratifica. e il via libera arriva a meno di un anno dalla vittoria del costruttore romano Salini contro l'altro offerente che era Gavio per il controllo appunto di Impregilo. Obiettivo della fusione, un gruppo da 7 miliardi e 400 milioni di ricavi, questo è l'obiettivo nel 2016, per ora i fatturati complessivi sono a quota 4 miliardi e la nuova società sarà al 20° posto tra i costruttori europei, al 60° a livello mondiale. Un portafoglio ordini del nuovo gruppo che si chiamerà Salini Impregilo S.p.A. per la precisione, che supererà i 20 miliardi di euro, oltre 32.000 dipendenti. Oggi presentato il piano alla comunità finanziaria e siamo in collegamento con l'amministratore delegato del gruppo appunto Salini Impregilo, l'ingegnere Pietro Salini. Buonasera innanzitutto. Buonasera a voi tutti. Allora ingegnere, mi faccia capire una cosa, al termine di questa operazione il flottante in borsa, poi veniamo al piano industriale del nuovo gruppo, a quanto sarà? Cioè quello che sarà contrattabile, scambiabile in borsa? Beh, diciamo, noi tendiamo adesso a riportare il flottante intorno al 25%, chiaramente questo è un progetto che richiede il suo tempo, nei prossimi mesi questo sarà il flottante. Attualmente cos'è, al 10? Attualmente è al 10, a valle dell'operazione di OPA è intorno al 10, sì. Ecco, voi ipotizzate anche nel futuro di poter scendere sotto la quota del 50%? Sì, a fronte di progetti interessanti e di allargamento importante della compagine, certo questo potrebbe essere anche un'opzione sul tavolo. Mi dica un'altra cosa però, voi avete fatto un'operazione, una lunga battaglia, assolutamente legale, ci mancherebbe, con Gavio dall'altra parte, l'obiettivo, lei ci disse quasi un anno fa, era arrivare appunto a un gruppo con maggior massa critica. Poi però quando guardiamo la classifica, nonostante la fusione, voi siete 20° a livello europeo e 60° a livello mondiale. Vi basterà questa massa critica per competere con i colossi europei ma anche mondiali? Beh, direi di sì, oggi noi siamo 20° in termini di fatturato globale, ma siamo fra i primi al mondo per fatturato di segmento. Ricordiamo che i nostri competitors non fanno solamente il nostro mestiere, che è fatto di grandi infrastrutture, ma fanno anche tante altre cose. Noi abbiamo scelto di focalizzarci, la nostra esperienza nel segmento è unico, nei 100 anni di storia di Salini e di Impregilo abbiamo realizzato qualcosa come 36.000 km di strada insieme con altri gruppi ovviamente, 1.200 km di tunnel, 300 km di metropolitane, quindi pensiamo di avere un expertise unico al mondo per poter fare questi grandi lavori. Su questo, i due progetti in questo momento in cantiere, ma più importanti, se ricordo bene, sono l'allargamento del canale di Panama, dove voi avete vinto una commessa, che in realtà lo porta in dote Impregilo, e la costruzione della diga etiopica sul Nilo Blu, quello sì, invece sì. Era roba vostra, diciamo, come Salini inizialmente. Sì, sì. A che punto sono questi due progetti? Beh, sono tutti e due in avanzata fase di realizzazione. Il progetto non è l'allargamento del canale di Panama, ma è proprio la costruzione di un nuovo canale di Panama, che è completamente nuovo e più grande, che è un progetto che sostanzialmente si affianca al vecchio canale di Panama, che rimane in esecuzione e che lo va poi sostanzialmente a ampliare come offerta per le nuove Super Panama, che sono delle navi che vengono costruite apposta, che riusciranno a passare e quindi avere la dimensione per poter finalmente passare Panama con delle dimensioni superiori. E per quanto riguarda il Great Ethiopian Renaissance Dam, che è un'operazione gigantesca, è una diga che ha circa 6.000 megawatt installate, voglio ricordare, sono circa 6 centrali nucleari messe insieme, una a fianco all'altra, per considerare la potenza installata, per dare un'idea di che cosa significa. È un progetto anch'esso in esecuzione, stiamo lavorando e pensiamo, insomma, ecco, di poterlo completare nei tempi previsti. Ecco, il valore dei due progetti, sia il canale di Panama e che la diga etiope. Sì, noi stiamo parlando di progetti che valgono circa 2 miliardi di dollari il canale di Panama e circa 3 miliardi e mezzo di euro la Great Ethiopian Renaissance Dam, che sono due progetti di dimensioni francamente molto importante. 2 miliardi quello che vale per voi, giusto? Sì, esattamente. E 3 miliardi e mezzo di euro quello che vale sì, per voi. Esattamente. Ecco, a questo proposito, cioè, non è un mistero che il fatturato delle costruzioni in Italia abbia fatto meno 40% da quando è scoppiata la crisi, che gli investimenti in infrastrutture in questo paese sono sempre più difficili, vedremo cosa capiterà poi, se si sbloccherà qualcosa a livello europeo, ma insomma il gruppo che voi oggi avete presentato sarà un gruppo sempre più internazionale, intendo dire con attività sempre più fuori dall'Italia, e quindi la vostra presenza come attività in Italia andrà a diluirsi? Eh sì, direi che è così. In questo momento la crescita che noi abbiamo è una crescita che in parte è comunque italiana, dove noi facciamo circa il 19%, il gruppo risultante dalla fusione fa circa il 19% del proprio fatturato in Italia, in forza di tanti progetti che ha ancora in corso, soprattutto derivanti da Impregiro. E naturalmente però la crescita è tutta quanta fatta e improntata sul mercato internazionale, e noi dobbiamo diversificare le fonti. Siamo presenti in 60 paesi, abbiamo oggi 32.000 persone che lavorano con noi di circa 80 nazionalità diverse, quindi è una società fortemente internazionalizzata. E quindi sempre meno Italia e sempre più estero per voi, no? Sempre meno Italia come baricentro, sempre più Italia come cervello. Mm-hmm. Quindi la nostra base rimane una base fortemente italiana, abbiamo tantissimi ingegneri italiani, tantissimi tecnici italiani che viaggiano per il mondo. Stiamo pensando, un'impresa come questa oggi ha una crescita molto importante, circa 20.000 nuove assunzioni verranno fatte nel corso dei prossimi 4 anni. Quante in Italia? Io spero che una buona parte dei giovani ingegneri possa venire dal nostro paese. Su questo stiamo costruendo dei programmi di formazione, stiamo facendo delle collaborazioni importanti con le università e vogliamo implementare dei programmi specifici di crescita per il nostro management nelle università, per poter dare accesso ai giovani a questa grande opportunità. Allora, questo per quello che riguarda le vostre attività in Italia e all'estero. Vorrei, nel concludere questa intervista, cambiare leggermente ragionamento, perché abbiamo visto cosa è successo al Colosseo e cosa rischia di succedere di nuovo al Colosseo, lo stato in cui versa Pompei. Ogni tanto rispunta, anche dopo l'operazione della Valle sul Colosseo, l'ipotesi che i grandi gruppi industriali, i grandi gruppi di questo paese possano accollarsi, forse il termine non è così corretto, possono avere un atteggiamento di mecenatismo del privato verso il pubblico, quindi prendersi in carico anche il patrimonio del nostro paese. Voi, un patrimonio culturale, sareste, è un'ipotesi che vi interessa, un'ipotesi che potrebbe in qualche modo avere un futuro? A noi ci interessa moltissimo il nostro paese, ricordiamo è la culla della cultura del mondo, e noi vogliamo che questo possa essere salvaguardato per le generazioni future. Abbiamo grande attenzione per la corporate social responsibility, figuriamoci se non l'abbiamo nel nostro paese dove viviamo e da dove tutto questo ha origine. Quindi vogliamo investire adesso molti soldi su questo. Abbiamo dedicato uno stanziamento che prevede che, a fronte di un pagamento che dobbiamo ancora ottenere, che è quello che è stato appena vinto anche in Cassazione, che riguarda i combustibili da rifiuto, verseremo un contributo per la ristrutturazione di Pompei di 20 milioni di euro. Di questo ci siamo già impegnati con il Presidente del Consiglio, con questa nostra promessa, per far sì che parte delle risorse che vengono, diciamo, dalla campagna tornino alla campagna, cambiando sostanzialmente quella che è oggi l'immagine del gruppo rispetto a quella situazione che si è verificata nel passato. Quindi dobbiamo investire nel nostro paese e fare una grande campagna stampa su questo, perché possiamo avere dei ritorni giganteschi in termini di immagine e soprattutto di turismo. Beh, in bocca al lupo anche su questo. Quindi si può investire in cultura in Italia, diciamo, anche dal mondo privato? Si può e si deve. Ne vale la pena per tutti. Allora, in bocca al lupo al neogruppo, noi sempre tifiamo Italia. Grazie al ministro delegato di Salini Impregilo, Pietro Salini. Grazie a tutti, buona serata. Ed è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Da Sebastiano Barisoni, come sempre, l'augurio di una buona serata. Noi ci risentiamo domani per un altro racconto della giornata economico-finanziaria dalle 17 in poi.